Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Dicembre 1970. Caro Michele, Matilde e io andiamo ogni giorno in via San Sebastianello a riordinare le carte di tuo padre e stiamo numerando i suoi quadri, che poi faremo portare in un magazzino. Dei mobili non sappiamo cosa fare perché né Viola né Angelica hanno posto in casa. Sono mobili grandi e ingombranti, perciò pensiamo di venderli. Ieri sono venuti lì anche Osvaldo e quel cugino Lillino per vedere i quadri. Lillino però ripartiva oggi per Mantova e sono contenta perché non lo posso soffrire. Lillino consiglia di non vendere i quadri per ora perché in questo momento sul mercato i quadri di tuo padre hanno quote molto basse. Gli ultimi sono enormi e io a dirti il vero li trovo orribili. Ho capito che anche Osvaldo li trova brutti. Ho capito anche se li guarda senza pronunciare una sillaba. Invece Lillino dice che sono magnifici e che domani il pubblico li scoprirà e varranno un patrimonio. Matilde semplicemente sventola il ciuffo e fa degli schiocchi con la bocca per esprimere ammirazione. Io non posso guardarli perché mi viene il capogiro. Chissà perché sarà messa a fare questi quadri monumentali e straboccanti. Ho preso per me quel mio ritratto di tanti anni fa alla finestra, nella casa di Pieve di Cadore. Quella casa tuo padre l'ha venduta pochi mesi dopo. Il quadro ora l'ho appeso nel soggiorno e lo sto guardando mentre ti scrivo. Fra tutti i quadri di tuo padre è quello che mi è più caro. Ci siamo lasciati pochissimo tempo dopo, alla fine di quell'estate, quando siamo ritornati a Roma. Allora abitavo in Corso Trieste. Tu e Viola e Angelica eravate a Chianciano con la zia Cecilia. Forse le tue sorelle s'aspettavano cosa stava per succedere. Tu no, perché eri piccolo, avevi allora 6 anni. Ho lasciato la casa di Corso Trieste una mattina e l'ho lasciata per sempre. Me ne sono andata con le gemelle e ho raggiunto i miei genitori che erano in villeggiatura a Rocca di Mezzo. Sono arrivata a Rocca di Mezzo dopo un viaggio che non ti sto a raccontare con le gemelle che hanno vomitato in corriera per tutto il tempo. I miei genitori erano lì, tranquilli, in un buon albergo, mangiavano bene, facevano piccole passeggiate nei prati. Non mi aspettavano perché non li avevo avvertiti. Sono arrivata in quell'albergo di sera tardi, con 3 valigie e con le gemelle tutte sporche di vomito. I miei genitori, quando mi hanno vista, sono rimasti stravolti. Non dormivo da una settimana per l'indecisione e l'angoscia e dovevo avere una faccia distrutta. A mia madre, 2 mesi dopo, le è venuto il primo infarto. Ho sempre pensato che le era venuto l'infarto per avermi vista arrivare a Rocca di Mezzo quella sera in quello stato. Nella primavera, col secondo infarto, è morta mia madre. Tuo padre ha stabilito che tu dovevi stare con lui. Tu con lui e le bambine con me. Ha comperato la casa di via San Sebastianello e si è installato lì con te. Aveva quella vecchia cuoca che si è fermata solo qualche mese. Non mi ricordo il nome. Forse lo ricordi tu. Per molto tempo io non potevo mettere piede in quella casa perché lui non voleva vedermi. Ti telefonavo e tu piangevi al telefono. Questo è per me un ricordo tremendo. Ti aspettavo a Villa Borghese con le gemelle e tu arrivavi là con quella vecchia cuoca che aveva una pellicetta di scimmia. I primi tempi, quando quella cuoca ti diceva che era ora di tornare a casa, urlavi e ti buttavi in terra. Dopo invece prendevi il tuo monopattino e te ne andavi con una faccia dura e calma. E io ti vedo ancora camminare dritto e spedito col tuo cappottino. Avevo accumulato un tale odio contro tuo padre che pensavo di entrare a via San Sebastianello con una pistola e sparargli. Forse queste cose non le dovrebbe dire una madre a un figlio, perché non sono educative. Ma la questione è che non si sa più cos'è l'educazione e se davvero esiste. Io non ti ho educato, non c'ero. Come facevo a educarti? Io ti vedevo solo a Villa Borghese, qualche volta il pomeriggio. Tuo padre, certo, non ti educava, essendosi cacciato in testa che tu eri nato educatissimo. Così a te non ti ha educato nessuno. Sei venuto su molto balordo. Ma non sono sicura che saresti stato meno balordo se avessi ricevuto da noi un'educazione. Le tue sorelle sono forse meno balorde di te, però sono anche loro abbastanza strane e balorde, una per un verso, una per un altro. Nemmeno loro le ho educate, o le educo, perché troppo spesso mi sentivo e mi sento una persona che non mi è simpatica. Per educare un altro bisogna avere nei confronti di se stessi almeno un poco di fiducia e di simpatia. Non mi ricordo quando e come io e tuo padre abbiamo smesso di odiarci. Una volta lui mi ha dato uno schiaffo nello studio dell'avvocato. Era un tale schiaffo che mi è uscito molto sangue dal naso. C'era là anche suo cugino, Lillino. E lui e l'avvocato mi hanno fatto sdraiare sul divano e Lillino è sceso in farmacia a prendere il cotone emostatico. Tuo padre si è chiuso nel bagno e non veniva più fuori. Ha paura del sangue e si era sentito male. Vedo che ho scritto «Ha paura» al presente. Non mi ricordo mai che tuo padre è morto. Lillino e l'avvocato bussavano al bagno e scuotevano la porta. È uscito pallido e coi capelli grondanti d'acqua perché aveva messo la testa sotto il rubinetto. Se ripenso a questa scena mi viene da ridere. Tante volte avevo voglia di ricordarla con tuo padre e riderne con lui, ma i nostri rapporti erano imbalsamati. Non eravamo più capaci di ridere insieme. Mi pare che dopo quello schiaffo lui ha smesso di odiarmi. A via San Sebastianello non voleva che io venissi, ma qualche volta ti accompagnava lui a Villa Borghese invece della donna. Anch'io ho smesso di odiarlo. Una volta a Villa Borghese abbiamo giocato a mosca cieca su un prato con voi e io sono cascata per terra e lui mi ha pulito il fango dal vestito col suo fazzoletto. Mentre era chino a pulirmi il fango, io vedevo la sua testa con i lunghi ciuffi neri e ho capito che fra noi due non c'era più nemmeno un'ombra di odio. È stato un momento felice. Era una felicità fatta di niente, perché sapevo bene che i miei rapporti con tuo padre sarebbero rimasti, anche senza odio, una cosa vile e miserabile. Però mi ricordo che il sole stava tramontando e c'erano delle belle nuvole rosse sopra la città e io ero dopo tanto tempo quasi tranquilla e quasi felice. Sulla morte di tuo padre non ho niente da dirti. Il giorno prima eravamo io e Matilde da lui alla clinica. Ha ancora chiacchierato, litigato con Matilde, chiamato l'architetto al telefono e parlato della torre. Ha detto che lui quella torre l'aveva comprata soprattutto per te, perché avendo tu una così gran passione per il mare, potrai passare là delle intere estati. Potrai portarci tutti i tuoi amici perché ci saranno un mucchio di stanze. Io so che tu non ami il mare e sei capace di restartene a riva tutto vestito e coperto di sudore in pieno agosto. Però non volevo contraddirlo e non ho replicato. Così lui ha continuato a almanaccare sulla torre. Secondo lui comperarla era stato un vero affare e un colpo di genio. Ha detto che lui aveva spesso di questi colpi di genio. Peccato che io non ne avevo, perché la casa che mi sono comperata deve essere una gran brutta casa, molto piana e molto cara. Non ho replicato. Poi è venuto un gruppo di suoi amici. Si sono fatti annunciare giù al centralino, ma lui ha detto che era stanco e non ha voluto riceverli. Erano Biagioni, Casalis, Maschera, una ragazza irlandese che credo fosse la sua amica. Ho mandato Matilde a riceverli. Così siamo rimasti lì soli, lui e io. Mi ha detto che potevo anch'io venire a passare l'estate nella torre. Però le gemelle non le voleva, perché avevano quelle loro radioline. Non l'avrebbero mai lasciato riposare il pomeriggio. Gli ho detto che era ingiusto con le gemelle, perché se arrivavi tu nella torre con una banda di amici, non credevo che nel pomeriggio lui sarebbe riuscito a dormire. Allora ha detto che forse qualche volta avrebbe invitato anche le gemelle. Viola e Angelica no. Viola aveva le campagne dei suoceri brutte e piene di mosche, e si divertisse là. Angelica aveva quel marito così noioso. Lo amava? Forse lo amava. Comunque lui questo Oreste nella torre non lo voleva perché una volta aveva parlato male di Cézanne. Imbecille. Era una rana. Come poteva esprimere opinioni sopra Cézanne? Ha detto che avrebbe scelto con grande cura e cautela le persone da invitare ogni estate. Ogni estate? No, sempre. Perché lui progettava di vivere nella torre per tutto l'anno. Matilde, per esempio, nella torre non la voleva, non l'aveva mai sopportata, nemmeno da piccolo. Non capiva come mai io me l'ero tirata in casa. Io ho detto che mi sentivo sola e avevo bisogno di compagnia. Piuttosto di nessuno, preferivo Matilde. E poi Matilde mi faceva compassione perché non aveva più un soldo. Poteva sempre vendere quella vigna, ha detto tuo padre. Gli ho ricordato che quella vigna l'avevano venduta da un pezzo. L'avevano venduta per una miseria e al posto di quella vigna adesso c'era un motel. Allora ha detto che l'idea che ci fosse un motel al posto di quella splendida vigna era un'idea che lui non sopportava. Ha detto che io nel ricordarglielo ero stata sottilmente cattiva. Si è girato dall'altra parte e non ha voluto più parlare. Nemmeno con Matilde ha parlato più. Matilde poi mi ha detto che quella ragazza irlandese era in lagrime e l'avevano trascinata via a braccetto Biagioni e Casalis. Tuo padre l'hanno operato alle 8 della mattina. Eravamo là tutti nella saletta della clinica. Io, Matilde, Angelica, Viola, Elio e Oreste. Le gemelle erano da un'amica. L'operazione non è durata molto. Dopo ho saputo che l'hanno aperto e richiuso senza fargli niente perché non c'era più niente da fare. Nella stanza siamo rimaste io e Matilde. Nella saletta c'erano Angelica e Viola. Lui non ha detto più niente. È morto alle 2 di notte. Al funerale c'era molta gente. Hanno parlato prima Biagioni, poi Maschera. Tuo padre non poteva più soffrire né Biagioni né Maschera negli ultimi tempi. Diceva che non capivano la sua nuova pittura. Diceva che erano invidiosi di lui e che erano sparvieri. Diceva che lui aveva sempre saputo riconoscere gli sparvieri. Vedo che tu non leggi le mie lettere, oppure le leggi e le dimentichi subito. Non potrai farmi le gabbie dei conigli quando ritorni, perché le ho fatte fare da un falegname. I conigli sono 4. Sono 4, ma io non so se rimarrò ancora molto tempo in questa campagna. Non sono affatto sicura di non detestare questo posto. Al funerale di tuo padre c'era Filippo. Ti abbraccio, tua madre. Finita e chiusa questa lettera, Adriana si infilò un cappotto di cammello e si avvolse la testa in una sciarpa di lana nera. Erano le 5 del pomeriggio. Scese in cucina, guardò nel frigorifero. Guardò con antipatia la lingua di bue che Matilde aveva messo a bagno nell'aceto in un'insalatiera per farla salmistrata. Pensò che sarebbero stati perseguitati mesi e mesi da quella lingua salmistrata, probabilmente imperfetta. Non c'erano in casa né Matilde né le gemelle. Cloti era a letto con l'influenza. Adriana si affacciò alla sua camera. Cloti stava sotto le coperte con la vestaglia, con la testa involtata in un asciugamano. Aveva sul comodino la radiolina delle gemelle. Adriana le disse di mettersi il termometro. Aspettò. Cantava Bobby Solo. Cloti disse che le piaceva tantissimo Bobby Solo. Era la prima volta che Adriana la udiva esprimere un pensiero disinteressato e sereno. I pensieri che Cloti abitualmente esprimeva erano accompagnati da sospiri e riguardavano le sue personali fatiche, i bernoccoli del suo materasso, gli spifferi delle finestre. Adriana disse che le dispiaceva di non poterle trasportare la televisione in camera perché pesava troppo, Clo ti disse che la televisione non le interessava il pomeriggio. La sera sì. Non aveva però la televisione in camera nemmeno nell'altro servizio, dove pure disponeva di ogni specie di comodità. Enumerò le comodità dell'altro servizio. Una camera spaziosa e deliziosa, mobili deliziosi, bianchi e oro, e un tappeto di grande pregio che perfino la turbava un poco di averlo nella sua camera. Un materasso morbido, il riscaldamento a aria condizionata che dava una temperatura uguale in tutta la casa. L'avvocato sempre in viaggio e niente da fare salvo la cura di un gatto. Adriana le tolse il termometro dall'ascella. Segnava 36,9. Clotti disse che la febbre certo saliva perché sentiva brividi caldi e freddi e uno strano dolore in tutta la testa. Adriana le chiese se voleva un tè. Clotti rifiutò il tè. C'era però una cosa che non le piaceva da quell'avvocato, disse. L'avvocato, quando era in casa, voleva che lei la sera sedesse con lui a conversare in salotto. Lei non si sentiva in grado di conversare, non trovava gli argomenti. Non che l'avvocato le avesse fatto mai delle proposte. Lui aveva subito capito e stimato la sua serietà. No, lui voleva soltanto conversare. Per questo se n'era andata, perché non si sentiva di conversare. E anche perché c'erano state chiacchiere. La sorella dell'avvocato, venuta ospite, le aveva fatto un'osservazione riguardo a certi ossi buchi. Un'altra volta le aveva detto che facesse un bagno perché aveva odore. Lei si lavava tutte le mattine i piedi e le ascelle, dunque non poteva avere odore. Il bagno lo faceva una volta sola al mese perché le dava troppa debolezza. Ma erano pretesti. In verità c'erano state chiacchiere. Però adesso capiva che andarsene era stato uno sbaglio. Un imminente sbaglio. Adriana uscì e tirò fuori la macchina dal garage. Spalancò il cancello, odiò i due abeti nani che Matilda aveva fatto trapiantare davanti al cancello. Se ne stavano in quel nudo giardino con aria fintamente alpestre. Sperò che morissero. La strada procedeva a strette curve in mezzo ai campi. La macchina sobbalzava. Era stata una giornata di gran sole, non c'era quasi più neve. Il sole illuminava ancora il paese e i dorsi delle colline. Ma il crepuscolo già saliva sulla pianura con una fredda nebbiolina grigia. Odiò le gemelle che non tornavano. Odiò Matilde che era andata a comperare olive e capperi per la lingua salmistrata. Per un lungo tratto non c'erano case. Poi compariva una casetta bassa con un filo di fumo che usciva da un tubo nella finestra. Vi abitavano due fotografi. L'uomo era in quel momento sugli scalini e lavava dei piatti in un secchio di plastica celeste. La donna aveva un cappotto rosso e delle calze smagliate. Appendeva il bucato a una corda. Chissà perché il vedere quei due le diede un'acuta disperazione. Le sembrarono gli unici esseri che l'universo le offriva. Per un lungo tratto c'era ancora fango, siepi secche, campi spogli. Infine si usciva nella strada grande, percorsa in continuazione da automobili. Sul ciglio della strada uomini in tuta stavano raccolti intorno a un bidone di catrame. Pensò alla moglie di Filippo che aveva visto al funerale. Aveva la pancia. Sulla pancia aveva un cappotto giallo con dei grossi bottoni di tartaruga. Aveva un viso ossuto e giovane, duro, i capelli tirati e raccolti in una liscia e piccolissima pagnottella. Camminava accanto a Filippo rosea, dura, seria, con la borsetta fra le mani. Filippo era sempre uguale. Si levava e si rimetteva gli occhiali. Si cacciava le lunghe dita nei ruvidi riccioli grigi. Si guardava intorno con un'espressione fintamente risoluta e fintamente autorevole. Per arrivare al paese si saliva su per un crinale dove la strada era illuminata da lampioni al neon e in quei giorni inghirlandata di festoni di carta per una prossima processione. In paese essa imbucò la lettera. Comperò delle uova da una donna che era seduta davanti alla chiesa con un cestino e un braciere. Parlò con lei del vento che si era alzato improvviso portando sui tetti nuvole nere e facendo oscillare i festoni della processione. Entrò al posto pubblico e telefonò a Angelica tappandosi un orecchio per il chiasso. Le disse di venire a pranzo domenica. Avrebbero mangiato lingua salmistrata. La linea era disturbata e Angelica non capiva. Si salutarono brevemente. Risalì in macchina. Filippo, il giorno che era venuto a dirle che si sposava, era venuto con Angelica. Aveva voluto avere con sé Angelica per timore che lei avesse una crisi di lacrime. Sciocco, lei così raramente aveva crisi di lacrime. Andava giù tutto, era solida come una quercia. E del resto, quella era una cosa che si aspettava da un pezzo. Solo che da quel giorno la casa di via dei Villini le era diventata odiosa, perché in quella stanza da letto con gli archi era rimasta distesa, piangendo un poco, quando Filippo se n'era andato e Angelica le teneva la mano.